orgoglioso di ascoltare Radio Italia, Radio. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La partita sarà sicuramente diversa perché è una finale, una partita secca e c'è in palio un trofeo, e quindi ci sarà molto equilibrio e non è detto che si risolva nei 90 minuti. Noi ragioniamo che un nuovo giorno è una nuova opportunità, una nuova partita è una nuova opportunità, questa non è una nuova opportunità, è una grandissima opportunità e vogliamo provare a portarla a casa. Sarebbe tantissima roba, ma non perché sono un ex juventino, sarebbe tantissima roba per noi della Lazio, per il lavoro che stiamo facendo, per quello che stiamo creando e per le basi che secondo me abbiamo già gettato per pensare e essere ambiziosi da domani in avanti. Buongiorno a tutti, quelli che avete sentito li avrete riconosciuti, suppongo, nell'ordine, in ordine di apparizione, Allegri e Pioli, che questa sera saranno seduti sulle panchine della finale di Coppa Italia. Pierluigi Pardo invece tra un attimo sarà seduto sul treno che lo porterà alla finale di Coppa Italia, non alle panchine ma alla tribuna. Oggi sperimenteremo la telefonia, eh? Oggi il telefono dovrà stare il massimo. Io ci credo, però io sarò tu ci credi. Yes we can. Oggi faremo grandi prove di telefonia mobile. Se superiamo questa, è andata per sempre. Ascolta, se c'è un errore che la Lazio non deve fare è pensare che la Juventus abbia la testa da un'altra parte, abbia meno fame, che la Juventus abbia paura di farsi male. Non deve pensare tutto questo se vuole vincere la Coppa Italia. Hanno tutte e due un pensiero più grande, nel senso che la Lazio ha il pensiero del derby, ma credo che oggi lo rimuoverà, giustamente, e la Juve ha il pensiero di Berlino, ma penso che oggi lo rimuoverà, anche perché ne parlavo ieri sera col dottor Montali, che comunque è uno che se ne intende, diciamo, di logiche di gruppo, di come motivare un gruppo. È banale, ma vincere aiuta a vincere ed è davvero così, cioè quando tu entri in questa fase particolarmente calda della stagione si crea una magia che tutte e due le squadre hanno in questo momento e che non devono perdere, sì. E vincere darebbe ancora più autostima a tutte e due. Poi è ovvio che non è che battere la Lazio in finale di Coppa Italia possa portare a fermare Messi per definizione, oppure a vincere il derby nel caso della Lazio, però io credo che sia una partita fondamentale perché inevitabilmente uno stasera sarà molto molto contento e l'altro sarà un po' infelice, o comunque avrà una piccola macchietta in una stagione fin qui straordinaria. Queste sono le due squadre che stanno facendo meglio in assoluto, sì. La Juve a livello assoluto senza discussioni, però poi al secondo posto della classifica della felicità c'era la Lazio, certo. Ma posso dirti che alla fine questo anticipo dovuto a ovviamente ai motivi che sappiamo, che ha innescato cambi calendario, casini, polemiche eccetera eccetera, da un punto di vista strettamente calcistico probabilmente ci regalerà una partita migliore rispetto a quella che avremmo visto nella data prevista, perché sono due formazioni cariche che stanno bene, anche la Lazio ha recuperato, mi sembra abbia una faccia migliore, la Juventus proprio non riesce a perdere nemmeno con le riserve in campo, nemmeno a San Siro. Dunque io mi aspetto tutto sommato è una fortuna aver fatto questo anticipo di corsa. Guarda, io ti rispondo che non ho resistito, cioè potevo anche rimanermi lontano, però non ho resistito alla possibilità di vederla, perché secondo me sarà una grande partita, perché in questo momento è veramente il massimo che il calcio italiano possa offrire, ovviamente con tutto rispetto per Roma e Napoli, che sono due realtà, lo dice la classifica, molto molto competitive, però il livello di felicità della Lazio per me è superiore in questo momento, quindi è la squadra più ispirata che c'è dopo la Juve, quindi questa partita è una partita perfetta da questo punto di vista. Sarà anche un test secondo me significativo. Io la Lazio l'ho commentata l'altro giorno, non è che secondo me non è quella delle 8 vittorie consecutive, c'è qualche affanno ce l'ha. però ha recuperato giocatori, Pierluigi. Però rimane competitiva, ha recuperato Tedrai soprattutto, che secondo me è il giocatore fondamentale, e non a caso senza di lui una vittoria, due pareggi e due sconfitte in quelle 5 gare dopo la striscia di vittorie. E poi per quanto sia campo neutro, comunque io penso che un minimo di vantaggio la Lazio ce l'abbia per il fatto di giocare a Roma, anche se Roma è piena di juventini e tanti arriveranno da fuori, quindi insomma c'è equilibrio, però secondo me ci sarà un leggero vantaggio per la Lazio e vedremo. Io penso che la Juve ha un pensiero talmente grande che potrebbe portarla fuori strada, ma è anche un pensiero molto lontano, perché quella finale è ancora fortunatamente per la Juve distante, quindi stasera può concentrarsi veramente su se stessa, semmai fare turnover in campionato per la gioia di De Laurentiis alla penultima. Beh, vediamo. Ma poi vediamo, è chiaro, vediamo. Anche perché lì la rivalità l'ha fatta a casa al Siro, il turnover, l'ha fatta a casa al Siro. Che sì, appunto, sì. Poi alla fine, però insomma sono gasatissimo, dai. Poi c'è anche questo aspetto delle due assenze per squalifica della Juve, che in qualche modo secondo me contribuisce a riequilibrare ulteriormente dal punto di vista tecnico la partita. Sì, c'è un fantasma, ci sarà un fantasma all'opera, non all'opera ma all'Olimpico, ed è questo. Portare una squadra in Champions League penso che sia stato veramente qualcosa di importante e straordinario, che fa bene al nostro calcio, ma non ci deve illudere, ecco, non ci deve illudere perché... No, ma io mi auguro che sia un inizio, ecco, che sia un inizio poi di una ripresa veramente costante a livello internazionale anche delle nostre squadre. Pagherei dei soldi che non ho per sapere esattamente cosa pensa Conte, cosa c'è dentro la testa di Conte. No, Conte ha dentro di sé lo stesso sentimento magari che ha avuto in maniera diversa Guardiola quando, da allenatore top, ha firmato per il Bayern e ha firmato a dicembre, se non sbaglio, e in quei 5 mesi il Bayern prima di lui ha vinto tutto. Cioè ha questo tipo di atteggiamento, secondo me, questo piccolo rammarico, perché è chiaro che dal punto di vista mediatico le cose eccezionali che lui ha fatto in questi anni, che secondo me, ma credo sia oggettivo, sono decisive, perché senza Conte oggi la Juve non sarebbe lì, non sarebbe a Berlino, non avrebbe lo scudetto quindi, ancora sul petto, eccetera eccetera. Però è chiaro che comunque so, te ne vai, siamo esseri umani, orfani di Conte, giustamente, cioè lo scoramento, non tanti giocatori. Senti, sai come cantava Baglioni, no? Dipende, strada facendo. Bravissimo. Tu come stai? Strada facendo. Avrai sorrisi sul tuo viso, amore bello come. Quindi, no, strada facendo, ci risentiamo. Strada facendo. Gli occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Strada facendo verso Roma, ti ripigliamo. Traffico. Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Quando si fa una cosa diversa, si fa un'eccezione, come è stato fatto in questo caso, tu puoi anche avere un regolamento che te lo consente, però tu devi essere sicuro che tutti quanti sono d'accordo, tutti quanti lo accettano. Se invece solo qualcheduno, in questo caso non c'è solo un discorso di Lazio-Roma, ma c'è anche un discorso che poi riguarda, vedi, a cascata la partita Juventus-Napoli, no, allora la cosa non va più bene, perché ovviamente sono troppe le persone che scontentano. Giorgio De Luca, il nostro autore, l'ho ancora salutato, con Alessandro Marco Tulli e con Gianmarco Ferronato in regia mentre parla in viaggio verso Roma. Dopo lo riprendiamo, l'abbiamo lasciato a cantare strada facendo a squarciagola. Professor Michele Plastino, buongiorno. Illustrissimo, buongiorno a lei. Stavo leggendo di mercato, la Juventus che va a prendersi Cavani a Parigi, Dybala se l'è già preso, vuole prendersi anche la... vuole prendersi anche qualcosa che tu invece vorresti da laziale questa sera all'Olimpico? La Coppa? Beh, la Juve è molto motivata, ce n'ha tanti di motivazioni. Intanto il triplete, che è tanto caro ovviamente e giustamente ai tifosi dell'Inter, l'idea di poterlo prendere anche se con milioni di difficoltà, soprattutto del Barcellona, è allettante. Poi non vince da 20 anni la Coppa Italia, insomma. La Juve sta bene, sta bene mentalmente. E manca la Lazio, non è male. Ha l'occasione di fare un piccolo doublete, Coppa Italia, mettere sigillo una stagione praticamente perfetta, dai, diciamolo, Michela, al di là delle scaramanzie, dei ragionamenti che si possono fare adesso. Risultati ottenuti fin qui, risultati sportivi che ci sono già, al di là di come andrà a finire la stagione, che ovviamente fa tutta la differenza del mondo, ma anche valorizzazione dei giocatori. Guarda, tecnicamente appunto il tuo discorso è ineccepibile, se aggiungi un fatto che, almeno per quello che è il mio pensiero, stasera giocano la squadra più forte e la squadra che quest'anno ha giocato meglio, quindi è una bellissima finale da questo punto di vista. E hai ragione tu, anche se poi è difficile farlo capire a tutti, che tecnicamente comunque una stagione di successo, no? della Lazio, per come è la partita, al di là delle polemiche societarie eccetera, non ci ritorno sotto, però voglio dire, al di là di tutto è positiva, perché gioca bene, stai ad una giornata praticamente dalla fine, due giornate dalla fine, che non sai se puoi arrivare seconda o terza o addirittura, perché no, è ovvio, c'è anche l'ipotesi del quarto posto. E in questa tarantella a tre ovviamente si è inserito anche con anche giusti motivi di opportunità il Napoli, no? Perché è una vicenda inquietante questa per me del posticipo. Lo sai che ti avrei sfrucugliato, cioè, hai giocato d'anticipo, sai che ti avrei sfrucugliato su questo tema. Non sono d'accordo con questa decisione della Lega, ma sai, molti pensano che Lotito tutto quasi possa da quelle parti. Mi sa che è così, cioè questo credo che sia così. No, io non ne faccio proprio una questione di opportunità e di esagerazioni. Voglio dire, è ovvio, no, che una società di calcio tenda ad avere il maggior vantaggio, il maggior riposo, c'è una finale, giochiamola un giorno dopo, va bene tutto. Però in un contesto attuale dove si sa quello che si pensa di Lotito, eccetera, eccetera, per quello che riguarda il potere, mi è sembrato inopportuno questo, come ha scritto Gente Gnocchi ieri, chiedersi e rispondersi da solo, perché dai, su Berretta e Lotito, rapporto Berretta e Lotito è chiarissimo dai tempi di Lazio Sassuolo, no? Il giorno della richiesta di liberazione della Lazio da Lotito, lui era quasi mano nella mano con Lotito in tribuna, una storia che già ti fece capire l'orientamento. Allora, ok, è legittima magari la richiesta della Lazio, ma per carità. Ci il provi, quantomeno ci provi, ma non sto discutendo questo. Però io sono d'accordo con te, proprio per un concetto quasi, tra virgolette, sportivo. La Roma non c'entra niente, però è chiaro, ma tu guarda che strana commedia surreale, veramente esiste, perché il Napoli che cosa ti dice? Ti dice no, noi dobbiamo giocare in contemporanea, perché? Purtroppo perché si pensa male, no? Sì. Perché se il Napoli perde a Torino, è chiaro che Roma e Lazio abbiano tutto l'interesse a non farsi male. Basta fare due considerazioni: terzo posto assicurato per uno, secondo per l'altro. Uno non rischia il secondo posto per vincere il derby, per prendersi il terzo con i preliminari. Quindi lì è quasi inevitabile che succeda, inevitabile tra virgolette, e quindi il Napoli protesta. Il surreale era che comunque sia, anche prima della richiesta di questo posticipo della Lazio, il Napoli già giocava prima. Sì. E quindi il tutto già, a mio avviso, era tra virgolette, sempre quanto lo uso oggi, irregolare a livello di andamento regolare del campionato. Ma che cosa succede? Che De Laurentiis dice: ma visto che si fanno le eccezioni, e per questo è stata sbagliata, a mio avviso, la decisione della Lega, non tanto il posticipo per la tutela degli interessi della Lazio, che si doveva riposare un giorno in più, quella era legittima, quanto perché scatena una specie di catena di Sant'Antonio. Certo, perché De Laurentiis dice: allora si può spostare, allora spostatevi pure la mia, così io gioco in contemporanea. Chiaro. Il fatto che non viene accettata, al di là di quello che poi dice la Juve, crea quel senso di ingiustizia che non fa bene al calcio italiano, non fa bene per la violenza, non fa bene per la cultura. E quindi è tutto sbagliato, dai, è questo il discorso, è tutto sbagliato. Non fa bene per molte cose, e non farà bene neanche la gestione di una partita incasinatissima come il derby. Ne parlavamo ieri con Pardo, in un momento in cui la città è aperta, cioè nel senso in cui ha i suoi traffici, ha le sue cose da fare. Non sto parlando di quelli che mollano il lavoro per andare a vedere la partita, sto parlando di gente che lavora e che può trovarsi in mezzo a situazioni complicate. Insomma, c'è anche questo aspetto da considerare, io credo. Michele, ci picchia, concludo solo su questo, perché hai perfettamente ragione, perché ripeto, al di là del legittimo desiderio di giocare un giorno in più, hai dimenticato una categoria di quelli che hanno negozi, per esempio attività commerciali intorno allo stadio olimpico e che non possono lavorare perché è tutto bloccato, quindi non possono incassare i loro soldi. Insomma, nella migliore delle ipotesi, nella migliore delle ipotesi, nella migliore delle ipotesi, non facciamo Biancaneve né Alice nel Paese delle Meraviglie, perché comunque sappiamo come la gestione dell'ordine pubblico sarà al solito complicata. Cosa che non ci sorprende, così come, Michele, per chiudere, mi sorprende pochissimo l'ennesimo far west delle scommesse di Lega Pro, Serie D, eccetera. Quello è un territorio di nessuno, lo sappiamo bene, è un territorio nel quale nella maggior parte dei casi i giocatori non prendono i soldi, è un territorio deregolato e deregolamentato, in cui è molto complicato capire quello che accade. Dunque l'ennesima estate da scommesse che parte da quei piani mi sorprende, ti devo dire la verità, sarò cinico, mi sorprende zero. No, a me è sotto zero. Sotto zero. Perché poi sì, sotto zero, perché è anche proprio difficile da giudicare, no? Perché si intrecciano due situazioni sociali, giocatori che non prendono soldi e già guadagnano poco, e questo ovviamente non è legittimo. No, perché per me quella è veramente, l'ho detto ieri usando un termine forte, è un omicidio sportivo. Certo, ma aggiungi che poi c'è lo sciacallaggio, che è la cosa peggiore, di quelli che sapendo questo, sapendo di gente in difficoltà, fanno i diavoli tentatori. E quindi trovano inevitabilmente terreno fertile. Aggiungo solo una cosa, non l'approfondisco neanche a parte i tempi, perché già mi sono beccato tempo fa una querela. Ho sempre ritenuto che in un contesto italiano di un certo tipo non è possibile che si lasci tutto il nero mercato delle scommesse ai serbi o alla gente dell'est o a Singapore. Io credo che sia inevitabile una connessione con la malavita organizzata in Italia, vuoi che sia l'Andrangheta in Calabria, vuoi che sia la Camorra in Campania o la mafia in Sicilia. Noi ci dimentichiamo tante cose, tante minacce a dei giocatori, a mogli di giocatori, eccetera eccetera. Non vado oltre. D'altra parte tu sai benissimo come il calcio si presta a diverse professioni collaterali, da quella del tifoso a quella del corruttore o del giocatore d'azzardo, e anche qui stiamo scoprendo grosso modo l'acqua calda. Io sinceramente non avrei grandi idee su come ristrutturare quei campionati. Quasi impossibile. Ma non solo quei campionati. Il discorso è che recito un mea culpa, perché tanti anni fa, insieme, mi ricordo, a Enrico Bendoni, facemmo proprio una campagna perché ritenevamo che fosse giusto legalizzare il mondo delle scommesse laddove c'era quello clandestino, vecchio discorso che si può fare sempre per chi è antiproibizionista, no? È vero però che ormai si è allargato talmente il tutto che maledico l'idea di chi abbia mai pensato che si possa scommettere su una partita di calcio. Purtroppo non siamo in Inghilterra con la cultura delle grandi agenzie di scommesse che significavano sport. Non faccio i nomi per non fare pubblicità, ce ne sono alcune che sono state all'insegna della cultura sportiva. No, il calcio in Inghilterra è vissuto in un altro modo, in un'altra cultura. Nelle altre parti del mondo è andato in mano alla malavita, dai, anche adesso che non è clandestino, computer, eccetera. Quindi maledico la scommessa, in questo senso, purtroppo, devo dire, e poi sarebbe un bel gioco. Ciao Michele, grazie, come sempre. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie a voi. Grazie Michele Plastino. 800 24 00 24, abbiamo toccato un po' di temi. E dopo la borsa ne toccheremo molti altri, la vendita del Milan, e poi c'è quell'altra grana delle televisioni, ma hanno imbrogliato Sky e Mediaset, lo scopriremo, così come vi dirò un paio di cose sulle licenze UEFA, perché sono usciti i nomi delle squadre che hanno o non hanno la licenza UEFA. Già vi dico che il Genoa non ce l'ha. 800 24 00 24, il numero verde, qualcuno ha dei dubbi sull'altra genovese, ve lo dico dopo. Nicola da Parma, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione. A lei. Niente, io volevo dire una cosa un attimo sul Milan veloce. Dunque, praticamente circa una settimana fa Berlusconi, su una televisione mi pare genovese, disse che praticamente cercava investitori appunto da investire nel Milan, perché da solo non ce la faceva. Sì. Oggi praticamente, siccome che a differenza della settimana scorsa mi sono rimasti i gigabyte di internet, mi sono andato a vedere un po' di notizie sui quotidiani e leggo Galliani in prima pagina Faremo un grande mercato. Ecco, bravo, esatto. Cioè, io voglio capire una cosa, ma su quali basi dice questo, visto che il presidente fino a praticamente settimana fa cercava qualcuno per appunto aiutarlo. Cioè, mi sembra un po' due binari diversi, nel senso che se uno cerca soldi, poi l'altro è un te che dice sì, faremo grandi cose, se poi l'altro... Sì. Si parla di allenatori, dai nomi importanti che conoscete anche voi, no? Ieri abbiamo fatto il gioco dei nove sugli allenatori e quello su quella panchina, no? Il grande indiziato Montella, ma c'è ancora in ballo Spalletti, qualcuno dice Conte, Emery, un sacco di nomi. Allora, Nicolas, facciamo così. Resti con noi perché dopo la borsa rispondiamo a un bel po' di questi quesiti sul Milan che sono suoi ma sono anche miei. Antonio, provincia di Foggia, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto grazie per la convocazione, complimenti per la trasmissione. Lunga vita a tutti i convocati che smossa i toni, mai fuori dalle righe, rasserina anche i tifosi più esagitati, quindi complimenti. Ma sì, proviamo a divertirci. Sì, infatti, quello che è poi il calcio alla fine. Presto cambierò tutto, dice Renzi. Attenzione, presto cambierò tutto. Disgustato dal calcio, questa non l'avevo mai sentita. È una delle più classiche frasi fatte. Presto cambierò tutto. Allora, in realtà gli argomenti erano due. Uno riguarda le telecronache, ma fare il radiocronista e fare il telecronista è così diverso? Non so, io sono uno juventino sfegatato e dopo aver visto le partite mi riascolto le radiocronache su YouTube, no? Ad esempio Francesco Repice, e mi fa venire la pelle d'oca ogni volta per il lessico, per l'enfasi mai... Tecnicamente sono due mestieri diversi, questo non toglie che ci siano stati diversi, moltissimi famosi casi in cui i colleghi sono passati dal microfono della radio a quello della televisione, ma è proprio una questione di racconto e di tecnica giornalistica. A Bruno Gentili, ad esempio. I vari Piccinini, i vari Caressa, comunque... questi incredibile, questi eccetera eccetera. Ad esempio faccio i complimenti a Pardo, che è uno dei più discreti nelle telecronache. Vabbè, poi passo al secondo argomento, che è l'acquisto di Cavani da parte della Juve. Parlando sempre a livello di ipotesi, ci sono i 30-35 milioni per Dybala, poi questi altri 40-50 per Cavani, ma con Morata, Tevez, mi sfugge qualcosa o... Credo che non le sfugga niente. Potrebbe sfuggire se non quest'estate, l'estate prossima, Carlos Tevez, e questo non è un segreto. Potrebbe fuggire ad esempio Llorente, che questa sera giocherà titolare a causa della squalifica di Morata, e quindi insomma, per una squadra che si sta strutturando stabilmente da grande, mi sembrano eccellenti idee. Non dimentichiamo che la Juventus uscirà da questa stagione molto ricca, molto ricca. Borsa 800240024, numero verde. Spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Comincia. Tutti convocati. Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno consentito di accertare infatti l'esistenza di una stabile e ramificata organizzazione criminale che, grazie ai suoi appartenenti, calciatori, ex calciatori, direttori sportivi, dirigenti e tesserati e non, con questa attività criminosa avevano messo in piedi tutte condotte finalizzate ad alterare i risultati di varie partite di calcio, al fine ovviamente di conseguire numerosi e ingenti illeciti guadagni. Ormai è un anno che siamo al governo e ne abbiamo viste di tutti i colori, però il calcio italiano non può fare queste figurucce. Uno, non si capisce cosa c'è dietro costantemente a delle polemiche. Chi ha fatto polemiche perché il Carpi e il Frosinone andavano in Serie A? Io sono proprio contento che due realtà di provincia possano andare in Serie A come sono andati il Carpi e il Frosinone. Due, bisogna fare chiarezza sui diritti televisivi, allora di finirla con questo atteggiamento. Tre, ma vi sembra possibile che gli stadi siano fissi vuoti in Italia? Perché andare allo stadio è un problema, bisogna superare i tornelli, stare attenti a svitare il tappino della bottiglia di plastica e lasciare il tappino a parte, e poi però accade che chi vuole portarsi la bomba carta se la porta comunque e non gli fanno niente. E non gli fanno niente. ci dichiariamo parte lesa perché noi continuiamo a subire tutti quelli che sono le situazioni del paese indirettamente e poi messe in un grande moltiplicatore di comunicazione come siamo noi, perché vedete, noi siamo qui, ci siete tutti voi, vi ringrazio, altri posti non ci va nessuno, è comodo poi dire il calcio è uno dei sistemi paese che non ha bisogno di essere aiutato con questi scandali, con queste situazioni. Noi ci sentiamo parte lesa e siamo un soggetto che lo vuole attaccare il sistema, che vuole difendere il sistema, ma i mezzi che abbiamo noi non sono certamente, lo sapete perfettamente, non siamo mica carabinieri noi. E siamo alla munnezza del calcio italiano, scommesse, polemiche. Renzi che vuol fare riformatore, presto cambierò tutto, dice, parla di stadi, tra poco risentiremo altre dichiarazioni sugli stadi. Ha parlato Renzi anche di un altro argomento di stretta attualità che è uscito ieri, cioè della grana dei diritti televisivi. Saluto subito Marco Belinazzo, da Sole 24 Ore. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Senza il quale queste questioni non saprei da che parte pigliarle. Faccio sentire Renzi. Sì, sentiamo. Poi lo commentiamo. Chiarezza sui diritti televisivi, perché in questi anni non c'è stata chiarezza sui diritti televisivi. Non mi interessa entrare nella vicenda dell'indagine, non tocca a me, ma chiarezza sulla vicenda dei diritti televisivi, ed è giusto che si arrivi a un meccanismo equo. Dunque, questione dei diritti televisivi, che succede? Beh, devo dire che io ne ho scritto oggi sul Sole parlando di un'indagine postuma dell'antitrust che non si capisce perché sia stata fatta. La fonte, l'innesco sarebbero delle dichiarazioni di Lotito, quelle famose in cui dice di aver fatto parlare Berlusconi e Murdoch. Questa è venuta ieri anche a me, ma sono cose di qualche tempo fa. Sì, ma infatti l'innesco dell'inchiesta nasce a febbraio del 2015 e sono così incazzato per questa inchiesta perché getta ulteriore fango in un sistema e sopra un sistema che non ne ha bisogno, che già si fa male da solo, come gli scandali su calcio scommesse testimoniano, perché è una procedura completamente assurda, a meno che non ci siano altri elementi che fin qui non sono emersi. Perché cercherò di essere molto breve. Cosa è successo l'anno scorso quando c'è stato il bando sui diritti TV? Poche settimane prima, forse qualche mese prima, il Mediaset aveva strappato a Sky i diritti sulla Champions. Con 230 milioni contro i 130 che offriva Sky. A quel punto Sky ha cercato di fare il botto e prendersi tutta la Serie A. C'erano in particolare tre pacchetti, uno per il digitale terrestre e l'altro per il satellite, con 8 squadre, e c'era un pacchetto di 12 squadre, chiamiamole minori, ma dentro, per renderlo appetibile, era stato messo per esempio la Roma e la Lazio, e quindi il sistema era congegnato in maniera tale che, come accade oggi, un emittente prende un pacchetto principale e quello, diciamo, secondario, e l'altra prende le 8 squadre senza Roma e Lazio. Si aprono le buste, vince tutto Sky, perché l'offerta di Mediaset, che aveva vinto il pacchetto delle squadre minori, era condizionata alla, diciamo, acquisizione di uno dei due pacchetti principali, cosa che non è avvenuta. A quel punto Sky dice: ho vinto. Mediaset dice: no, non è possibile, perché la legge Melandri impone un divieto a che ci sia un solo operatore, un solo emittente, quindi sarebbe monopolio, è vietato. Si stava profilando l'ipotesi di una battaglia legale, un lungo contenzioso, i club avevano bisogno di soldi per fare il calciomercato, o comunque di sbloccare la situazione. Si fa questo accordo, Sky prende le 8 squadre migliori per il satellite, formalmente Mediaset prende le 12 squadre minori e poi le sublicenzia a Sky. Mediaset paga 100 milioni in più per le 8 squadre del digitale terrestre, ma dentro non ci vanno 5-6 squadre importanti e 3 deboli, ma tutte le squadre forti, comprese Roma e Lazio. Quindi Sky più o meno paga lo stesso che pagava prima, Mediaset paga 100 milioni in più. Accordo visto, perché lo prevede la legge Melandri, dall'antitrust, accordo visto dalla GCOM, entrambe hanno approvato a luglio del 2014 questa sublicenza, perché c'è un divieto di sublicenza salvo la possibilità di una deroga se approvata. Tutto perfettamente legittimo. Tutto perfettamente legittimo. Ora io non capisco come un anno dopo la stessa antitrust, che con una mano ha firmato l'approvazione, con l'altra dà ordine alla Guardia di Finanza di andare a ispezionare le serie di Sky, di Mediaset, di Infront, di Lega, parlando di un cartello. Normalmente poi il cartello fa abbassare il prezzo, certo, mentre c'è stato un incremento del 20%, ma e del resto dovrebbe essere ingiustificato visto il livello del calcio italiano, però c'è stato. Questa quindi, è la situazione, quindi tutto pretestuoso, cioè è una ripeto, a meno che non ci sia dentro, dentro le carte di altri elementi che non sono emersi, chiaro, però se questi sono gli atti, se questi sono i motivi, io sinceramente non la capisco questa indagine. Allora adesso ci fermiamo per il traffico e poi andiamo sull'argomento Milan con Galliani e lo sentiremo che ha detto faremo ancora con Berlusconi un grande mercato e un grande Milan. Ma come? Traffico. Battaglia, andiamo da Nando San Vito. Nando. Tutti convocati. Tutti convocati. Siamo ben intenzionati per la prossima campagna acquisti, quindi io credo che Milan, dopo quest'anno in cui abbiamo sofferto tanto, si possa ritornare ai nostri livelli. Abbiamo sempre detto che Pippo avrebbe concluso questo campionato, aspettiamo, mancano 12 giorni e dal primo di giugno prenderemo le decisioni e vedremo che cosa fare. Inzaghi ha un contratto anche per l'anno prossimo, andremo a esaminare le cose, però siamo d'accordo col Presidente di aspettare il 31 di maggio quando finirà il campionato. Dunque, abbiamo scherzato. Berlusconi probabilmente ha trovato qualche pozzo di petrolio alle Bermude, sì, Marco Bellinazzo, e villa, ha deciso che si... O Villa Gernetto, magari sotto scavando le fondamenta, non so, qualche miniera. Ma cosa succede? Confusione totale. Come fa Berlusconi? Allora, io posso dire una cosa. Sì. Ho avuto, diciamo, un po' di contatti nelle ultime ore con l'entourage di Mr. B. Il 2 maggio, quando c'è stato il famoso incontro a Milano sulla porta dell'albergo, prima nella suite era stato, diciamo, apportate una serie di modifiche al contratto, all'accordo, ed era stato fissato un termine che scade oggi, entro il quale Berlusconi doveva dare il suo assenso alla vendita del Milan. Sì. Berlusconi non darà nessuna risposta entro oggi a Mr. B. Questo non significa che non sia un potenziale acquirente del Milan Mr. B la sua cordata, ma che le cose vanno per il lungo e che evidentemente sta emergendo, sta prevalendo in questo momento nell'ambito della famiglia Berlusconi e della Fininvest la necessità di una ulteriore riflessione sull'opportunità di tenere il Milan o di cederlo a determinate condizioni. Io ho appunto appurato queste due cose, per il sul resto potremmo fare tante ipotesi, sai che non mi piace fare ipotesi, cioè, se non ho dei riscontri, però questo è lo stato dell'arte. I cinesi famosi continuo io a non averli mai incontrati e quindi mi sembra una pista. Sul ruolo del premier cinese della... il ruolo del premier cinese non esiste, non cioè, esiste. Con tutto il rispetto non che esistono per emissari il lavoro del presidente cinese, assolutamente no. Quello che vi posso dire è che effettivamente c'è stato un incontro tra Berlusconi e una presunta emissaria, a questo punto devo definirla tale, la famosa dama bianca cinese, la quale però al momento in cui doveva poi fornire le garanzie bancarie, mettere sul piatto un po' di soldini per dare credibilità, la cosa è sparita. Si è data la macchia. E quindi, classica dama bianca. E quindi, come fanno tutte le donne, al momento opportuno, come dire, si è tirata indietro. Beh, certe volte anche gli uomini chiedere al signor Allegri Massimiliano. Però sì, di solito accade per le donne. Di fatto, quindi, la pista principale resta quella di Mr. B. Il termine entro il quale il tutto doveva concludersi, cioè ripeto, oggi scadrà così senza nessun accadimento. Ci sono impegni politici anche di Berlusconi, insomma, che hanno consigliato di attendere. Mister B è molto arrabbiato, ma è comunque innamorato del Milan. Il progetto è serio, i soldi ci sono, c'erano 100 milioni insomma per il mercato. Chiaramente se dovesse ora tra qualche settimana ribussare Berlusconi alla porta di Mister B, cambierebbero un po' di condizioni, immagino, sì. Ma è una mia supposizione. Dopodiché vanno lette e interpretate anche le dichiarazioni di questa mattina, insomma, dell'amministratore delegato del Milan Galliani. Sì, sì. E io penso stanno mostrando i muscoli. Sì, credo che la possibilità che il Milan, ecco, faccia una buona campagna acquisti è molto legata a un eventuale intervento di Doyen, certo, di Doyen Group, e al ruolo dei fondi, su cui potremmo aprire insomma altri capitoli, ma non è il caso. Io so solo che laddove i fondi sono intervenuti in Europa hanno permesso effettivamente una rapida evoluzione, una rapida crescita di alcune squadre, penso all'Atletico Madrid, sì, penso a Siviglia, penso al Porto. Chiaramente il tutto si deve accompagnare a una politica che ti permetta di aumentare i ricavi, pagare, certo, i debiti che si fanno con questi fondi, certo, e poi ritrovare piena autonomia. Che questi arrivano e ti regalano i soldi. Tornato Pardo, c'è ancora? Sì, sono qui, sono stato da qualche minuto. Ecco, ma di chi avete già parlato? Come? Di TV avete già parlato? Sì. Abbiamo parlato e appurato che si tratta di, grosso modo, e salvo elementi che non conosciamo, di una montagna di frottole. Quindi questo è ciò che abbiamo appurato. Sono basito, lo dico sinceramente, ho letto Belinato, ho letto Iaria, poi ho letto anche altre cose. Sono basito dal livello ero anche curioso di sentire proprio Belinato su questo, però carico il podcast e lo sento, sa. Mi sembra che veramente siamo in Italia. Piero, ho parlato di un'indagine postuma dell'antitrust che non ha alcun fondamento. Okay. Assolutamente, sì, l'abbiamo raccontato nel luglio 2014, la sublicenza era stata approvata. Male, è come se praticamente due soggetti si mettono d'accordo con un terzo soggetto che è la Lega, sono tutti d'accordo, chiedono alla G-Com, l'antitrust, se è d'accordo. La G-Com è l'antitrust, le due autorità. Va bene. E poi dopo un anno indaga. Sì, sì, esattamente, prima è andato così. Indaga se c'è una parte lesa, no? Cioè, certo. Invece qui Sky è d'accordo, Mediaset è d'accordo, la Lega Calcio è d'accordo. Ho raccontato insomma, no, come, ma come sono andate che le cose. Pensa che il fattore scatenante potrebbe risalire alla solita famosa telefonata di Lotito: ah, io sono così bravo che ho fatto parlare Mardo e Berlusconi, che non si parlavano da anni, e grazie all'intervento. Questo è pazzesco, questo è pazzesco. Sto arrabbiato perché poi conosco un po' il meccanismo mediatico, e quando leggo su Repubblica, Corriere della Sera, giornali che ovviamente leggo tutti i giorni, che stimo, che viene fatto questa sorta di occulta associazione fra una roba gravissima, se ovviamente se venisse confermata, che è l'ennesima tranche di calcio scommesse, eccetera, eccetera, con impossibili infiltrazioni della 'ndrangheta, quindi parliamo proprio dell'illegalità assoluta. E poi viene messo in mezzo una roba che fatto vede. No, ma è chiaro, questa è una circostanza temporale, perché ieri sono uscite bam bam queste due notizie che nulla hanno a che fare l'una con l'altra. Devo fermarmi per il giornale radio. Io ringrazio Marco Berinazio. Ciao Carlo, alla prossima. Ci prestissimo. Pierluigi Pardo è lì, è in viaggio. Ribeschiamo. Sono arrivato. Perfetto. Mezz'ora tutta. Allora sta lì. Ciao, a dopo, GR. Non si rendono conto che il tempo è finito. Finisce qua, primo tempo. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e Il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Arrieccici. Convocati. Allora, ho passato il tempo del GR a convincere Marco Bellinazzo a rimanere con noi invece di scappare al piano di sopra al Sole 24 Ore, ai piani alti. Sei contento, Pardo? Sì, ce l'ho fatta. Bellinazzo per me è un guru. Ce l'ho fatta. No, volevo, c'è questa notizia secondo cui è divertentissima, cioè divertente, sto scherzando, è divertente per un po', si allarga la storia dell'immondezzaio delle scommesse, adesso spuntano anche i nomi, altre partite e i nomi di altre squadre che sono Benevento Ascoli e la Salernitana di Lotito. Questa è ciò che si scrive. Volevo parlare un attimo con voi anche di un altro argomento che mi sta a cuore, perché oggi era il giorno delle licenze UEFA, signore e signori, e al Genoa non l'ha andata. Insieme al Genoa non potranno beneficiare di licenza UEFA le tre squadre retrocesse più Chievo, Empoli e Palermo. Dunque, chi aveva dei dubbi sulla Sampdoria è a questo punto servito, Marco. Beh sì, di fatto poi questo primo anno è stato abbastanza semplice per Ferrero, ha avuto una società sostanzialmente ripulita anche dai debiti. Vedremo come la gestirà nei prossimi 2 o 3 anni, perché dovrà rendere la squadra autosufficiente dal punto di vista economico. Diciamo che se dovesse venire un approdo a una competizione europea, partirebbe con il piede giusto. Mentre Genoa? Beh, il Genoa, io un tempo fa mi ero lasciato un po' andare dicendo che c'era il rischio che fosse un nuovo caso Parma. E ora ci sono due indizi, cioè il fatto che, come il Parma aveva fatto un'operazione di cessione del marchio, maquillage contabile per ridurre le perdite, non ha avuto la licenza UEFA, Preziosi giustamente non vuole l'accostamento perché dice che è un semplice ritardo burocratico. Aveva detto anche Ghirardi l'anno scorso, mi pare. Non lo so, non lo voglio dire. No, è cronaca, credo. Fatto sta, insomma, che è Preziosi ora. La memoria di un pesce, ma mi sembra che abbia detto proprio queste cose qui. Mettiamo così: potrà evitare complicazioni alla squadra genuana, e ce lo auguriamo tutti, anche perché ha ceduto parte di giochi preziosi a un socio cinese, quindi ha incassato un po' di soldi. Cinesi anche lì, ha messo 25 milioni per ricapitalizzare, quindi diciamo facendo un giusto mercato potrebbe tenere in equilibrio i conti del Genoa. Ce lo auguriamo, perché un altro caso Parma, sinceramente. Certamente. No, è un'estate, Pierluigi, che ci mette un po' di brividi addosso, tra squadre che non stanno benissimo, squadre imbischiate nel calcio scommesse. Potrebbe essere un'altra estate d'agonia. Sì, anche perché insomma mi pare che ci sia grande confusione, no? Anche mediaticamente sulla fuffa, invece le vicende gravi, gravissime che stanno emergendo, ovviamente se verranno confermate, su tutta la vicenda delle scommesse, e per cui insomma sì, prepariamoci a un'altra estate. Scusami Pier, no, dicevo, ma aggiungo questa cosa, volevo sapere cosa ne pensi. È un peccato perché quelle squadre che invece in questi anni hanno dimostrato di voler avere, come dire, un appeal europeo e anche un'organizzazione europea, facendo cose che fanno semplicemente le altre squadre in Europa, e penso alla Juventus e penso all'Udinese, quest'anno hanno fatto il botto anche economicamente. La Juventus direttamente con il bel percorso in Champions, certo. L'Udinese attraverso il Watford, che è arrivato in Premier. Quindi vuol dire che il calcio italiano non è come dire un'unica palude in cui tutti sprofondano, ma che dove ci sono dei progetti seri si possono ottenere dei risultati. Ma guarda che il discorso è verissimo ed è serissimo, e secondo me, sai, io la filosofia che tutto va male, che tutto fa schifo, non l'accetto. Secondo me il calcio italiano su alcune cose sta facendo delle cose molto importanti. Molto banalmente, l'ultimo contratto sui diritti televisivi c'è un aumento del 30% dei ricavi. Non siamo ai livelli ovviamente dell'Inghilterra, ma ci stiamo avvicinando. Le società che stanno lavorando per costruire nuovi stadi stanno andando sicuramente nella direzione giusta. Ci sono poi esempi di programmazione virtuosi, quindi insomma non è che è tutto assolutamente da buttare via. Quello che mi fa paura, pensando a quello che faceva da resto, al di là del fatto che ovviamente mi auguro e penso che sia la stessa situazione del Parma, è che mi pare che il sistema abbia pochi anticorpi. Cioè, la vicenda del Parma ha dimostrato che prima di far apparire la spia della riserva, cioè quando ti appare la spia della riserva è troppo tardi. Sì, certo. Quindi certo. Io poi non credo, spero che insomma, cioè il fatto che Preziosi abbia usato le stesse parole che dovevo girarti l'anno fa, credo che sia un puro caso, nel senso che credo che quello sia chiaramente il modo che qualsiasi persona ha per giustificare ma vogliamo, un problema. Vogliamo crederlo tutti, vogliamo crederlo tutti, vogliamo crederlo tutti. Però se c'è qualche problema, meglio che esca, magari quando è ancora risolvibile, piuttosto che quando le vacche sono scappate e sono andate dall'altra parte della montagna. Come sapete è anche questa sarà una notte da gufi, ovviamente tutti i romanisti ti faranno Juventus e poi ci sono quelli che ti faranno contro la Juventus, notte da gufi, e poi sarà la regina delle notti da gufi quella della finale di Champions, tanto che a Moratti hanno chiesto: presidente, dia una mano alla Juventus. L'Inter del Tripletto era dei giocatori formidabili, fantastici, ed era 5 anni, tanto quanto la Juve, che è tanti anni che vinceva il campionato. E quindi sono due squadre, tutte le squadre sono una diversa dall'altra, aveva le sue caratteristiche, come la Juve c'era la sua. La Juve la vedo di fortissimo carattere, questo sì. Lei è presente, il Barcellona l'ha battuto, vuole mandare un consiglio? A Barcellona. Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Ti ho introdotto col consiglio di Moratti, l'intenzione di Moratti, devo dare un consiglio. Ma sì, no, divertente, basta. Poi era chiaramente spaccatamente una battuta, quindi ma insomma, no, ma ci sta, ma è bellissimo, dai, ma certamente. Molto bene. Senti, c'era Marco Beninazzo che voleva sapere qualcosa da te. A proposito, parlavamo di diritti televisivi e indagini pretestuose che sono in corso qui dalle due parti. C'era uno sciopero ventilato come al solito rientrato, Marco. Sì, ma soprattutto nella follia di una situazione in cui la Lega e le squadre avevano chiesto per anni l'intervento della legge per centralizzare i diritti TV, e poi la federazione, credo per inimicizie insomma tra i due presidenti, che dichiarano sciopero coinvolgendo parte dei giocatori. Rientrato, però appunto tu cosa ci vuoi raccontare? A che punto siamo? No, adesso devono provare a venderli questi diritti, perché è un po' un decreto legge non proprio chiarissimo, ovvero finora c'è una divisione assolutamente non equa, e con la nuova legge se si vendono a 1 miliardo, no? Allora in quel caso anche le squadre più piccole potrebbero avere buon beneficio, e se non si raggiunge quella cifra comunque Real Madrid e Barcellona la loro percentuale ce l'hanno garantita, per cui non è esattamente un decreto super democratico, però se si arriva al miliardo, allora sicuramente anche le squadre che in questo momento prendono le briciole potrebbero avere qualcosa in più. Sì, quindi è una partita ancora tutta da giocare, sì, mi sembra. Sì, stanno da giocare da noi, perché noi è stata sfiorata, e mi pare che la ripartizione sia comunque più graduale. Sì, no, questa spagnola è la peggiore ripartizione a livello di democrazia, è la peggiore. Il rapporto tra la prima e l'ultima è di 7-8-1. Noi siamo più o meno a 4-4.5-1, in Premier sono a un livello di 1.5-1, cioè la prima non può prendere una volta e mezza più dell'ultima. Anche perché poi in Premier vale anche la classifica, che è una cosa interessante, e poi soprattutto quello che per me è molto importante, in Premier tu hai un salvagente per chi retrocede, importantissimo, certo. Significativo, non è solo nominale. Loro gli garantiscono quello che prendevano in Premier praticamente per un anno e quasi per 2 anni. Sì, sono 70 milioni di euro su 4 anni. Abbiamo fatto 4 conti in tasca a Pozzo dicendo che il core business a questo punto del gruppo Pozzo potrebbe non essere più l'Udinese ma il Watford. Filippo vuole sapere, io credo anche Pardo voglia sapere, viene Benitez? È il candidato numero 1. Numero 1 addirittura? Numero 1, sì. È, di rincorsa, come al Palio. dopo il gioco dei nove di ieri, tu non c'eri ieri. No, a un certo punto abbiamo fatto il gioco dei nove, ho detto, ma è Real, Benitez, da quel momento è partita. È partita. No, Benitez si è messo molto bene. Allora, cioè, la storia è abbastanza curiosa, nel senso che Florentino non lo amava, non sappiamo se lo ama, però Florentino non ama neanche sua moglie, mi sa. Adesso poi diciamo che non è deceduta, quindi non possiamo. Non l'amava, diciamo che non l'amava. Florentino intanto sta trattando male Ancelotti, e questo ovviamente va malissimo per quanto mi riguarda, non è assolutamente immeritato tutto questo. E dopodiché non riesce a trovare il sostituto. E ovviamente lui, il sostituto sarebbe lui stesso, dovrebbe andare lui in panchina, però ovviamente ha altri impegni e non lo può fare. Però Klopp non si fida, lui non si fida di Klopp, però no, è troppo sofisticato, è un allenatore troppo sofisticato. Ce lo vedi Klopp che gli spotta a ridere su una di queste risate sataniche di Klopp e dice Gareth Bale deve giocare, Klopp fa una risata e magari il gallese finisce in panchina. Uno scenario che apocalittico. Sì, per Florentino poi non gli può neanche rispondere bene in tedesco, sarebbe, e quindi diciamo al momento non è insomma, non l'ha convinto. Poi Mendes, come al solito, cerca di fare il suo lavoro, ha provato a piazzare Jorge Jesus, no? Quello del Benfica, che però insomma non ha un carattere semplice, e al momento non rimane molto altro. Sì, si è parlato di Emery, di Valverde, Lopetegui, però Zidane si è bruciato e Rafa Benitez è il candidato numero uno, il grande amico di José Ángel Sánchez, che è l'unica altra persona che a Real Madrid conta qualcosa. Sì. E quindi ci siamo. In tutto questo non hanno ancora detto glielo diranno. Aspetta, dovevo dirti una cosa mentre lo spogliatoio. Aspetta, che devo dire una cosa. Del Bosque fu licenziato in corridoio da Valdano, nemmeno da Florentino Perez. Del Bosque aveva vinto la Liga quello stesso anno, la Champions l'anno prima, più un'altra Champions due anni prima, 7 titoli in 3 anni e mezzo. Era il prototipo allenatore del Real Madrid. Perfetto, per poteva rimanere lì 10 anni. Il Ferguson, lo hanno licenziato in corridoio, senza neanche parlare direttamente con lui. Dunque Carletto dovrebbe passare da qualche finestra. Io chiedo a Pardo e a Berinazzo, anche per ragioni di tifo, come lo vedrebbero Benitez al Real Madrid, Pier? Ma è un candidato organico. Organico. Beh, appartiene a quella storia lì, appartiene a quel comunque non è amatissimo, perché no, non è amatissimo, però comunque dire il gioco non è nemmeno così galattico. No, ma infatti non so se glielo consiglierei. E Klopp è chiaro che c'ha la risata satanica, certamente non si fa mettere i piedi in testa, però se uno cerca un certo tipo di modello estetico, Klopp sicuramente qualcosa in più ti può dare. Benitez è un buon allenatore, ma di quelli che gestiscono, no? Negli ultimi anni, quindi non è che non mi sembra più spettacolare di Ancelotti, ma sinceramente mi sembra un po' nella stessa categoria, dello stesso tipo anche. Beh, poi a livello di gestione Rafa non è così, diciamo, come si può dire, non ha l'esperienza di Carlo a livello di gestione di questo tipo di rose così particolari, mettiamola questa, quindi non lo so. Marco che dice? Beh, che Marco è deluso. Si riporta dietro al Caglione e Higuain. Come prima cosa, non lo vedo. No, io credo che il suo gioco in realtà è molto spettacolare, però ti può dare come 10-15 partite all'anno di assoluto spettacolo e di assoluto godimento. È nella fase di mezzo, nella fase media, che però sai, con i giocatori del Real le puoi anche gestire le partite. Il problema è che si è dimostrato assolutamente inadatto in Italia per 2 anni a gestire queste partite medie, che poi sono quelle che ti fanno vincere o perdere. Sì, qua sono più semplici ovviamente, perché il Granada magari appunto perde 9-1 qua, magari perdere 4-2 ad Empoli quando sei a un passo dai posti Champions, insomma non credo che possa avvenire in Spagna. Detto questo, il nuovo allenatore del Napoli sappiamo chi è, Mihajlovic. mi auguro insomma che probabilmente con Sogliano direttore sportivo. Beh, questo mi dispiace un po' perché credo che Bigone abbia fatto molto bene finora, magari qualche colpo l'ha sbagliato, ma quello è fisiologico. È una... dovrebbe andare al Verona Bigone, mentre il Verona chi andrà? Non ho idea, insomma, penso che ripartiranno con un allenatore, con un dirigente giovane, insomma, visto che hanno saputo valorizzarli. Mihajlovic è uno di quegli allenatori che ha mille facce e che già mi vedo nel confronto con De Laurentiis. O si amano alla follia o si odiano. No, ma io credo che vada d'accordo. Poi sai, quando bisognerà, non so, rifare la rete, la recinzione intorno a Castelvolturno, sì, e non la si può fare perché De Laurentiis è via e lui decide qualsiasi cosa e l'incazzatura di, immagino, Mihajlovic di farla da solo pur sì, di non oppure dover dite richiedere. Ma sì, ma poi se fa recinzione può aspettare altri 10 giorni che torna presidente, rifà tutto. Io volevo chiedere ancora una cosa invece a Filippo Maria Ricci, ma due squadre sulla strada del doblete, quantomeno Juventus stasera e poi anche il Barcellona in finale di Coppa di Spagna, però quante probabilità ci sono che Luis Enrique vada via anche con il triplete addosso? Perché tu l'hai scritto, io ti seguo con attenzione. Sì. Guarda, io a me sembra una follia, Ma sì, però non piace a Messi. È parte della persona Luis Enrique, non è. È una persona estremamente onesta, estremamente trasparente, e le cose nello spogliatoio non vanno benissimo, insomma, le hanno rimediate, però. È uno scenario non da escludere, io lo escluderei ovviamente, cioè sarebbe un assurdo, no? Sì. Cioè, se Real Madrid e Barcellona cambiano gli allenatori, cioè Real Madrid è sicuro, se lo cambia anche il Barcellona è assurdo, insomma, andare via dopo il triplete, sì, lo fece Mourinho dall'Inter, però perché sapeva che lì sì, c'era anche un altro tedesco che era capitato di recente, Sì, però era diverso, lì era già deciso più o meno. Mourinho giustamente poi lo chiama Real Madrid, va bene, sa che l'Inter più o meno il discorso è chiuso, di più di quello non potrà mai fare nessuno, va bene, però per Luis Enrique il ciclo teoricamente è appena aperto. Però stanno facendo di tutto per convincerlo, ma appunto questa frase ti dice come stanno le cose, stanno facendo di tutto per convincerlo a restare. Perché dovrebbe essere normale, no? Sì, no, dovrebbe essere normale, anzi, ti allungo il contratto, ti do più soldi, invece per favore vinciamo la Champions e poi ti prego resta. Ragazzi, vi saluto ciao, tutti. Ciao Filippo Mararicci, ciao Pierluigi Pardo. Marco, stiamo chiudendo la trasmissione, andiamo al Giro d'Italia, segui il Giro d'Italia. Assolutamente sì. Pier Augusto Stagi, come va? Ciao Carlo, buon pomeriggio. Anche lì, ieri una giornata di mille intrighi, intrecci e gialli, il caso Ricci Porte, non ci siamo fatti mancare niente. Beh sì, in una tappa di trasferimento dove ci si attendeva semplicemente una volata, in realtà non abbiamo avuto la volata perché è arrivata la fuga. Sì. E poi c'è stato questo fuori programma, prima la foratura di Ricci Porte, che comunque in ogni caso è costata 47 secondi, e poi questi due minuti di penalizzazione perché il corridore, il team stesso hanno combinato dei pasticci, non conoscevano il regolamento comunque, se l'erano dimenticati, e questo fatidico articolo, il 2.3.12, non se lo ricordavano minimamente. D'altra parte non è stato introdotto l'altro ieri, ma c'è da sempre. Sì. Però probabilmente, non so, adesso i regolamenti sono anche scritti in inglese, ma qualcuno se l'è dimenticato, lo sapeva bene in inglese. Pressurizzato, fanno vivere Ricci Porte in condizioni quasi aerospaziali. Sì. Noi giornalisti, per salire sul motorhome, dobbiamo disinfettarci le mani con la mucchina, e però non conoscono il regolamento. Cosa che ti dica, Carlo? No, niente, perché per carità, mi sembra l'analisi corretta. Oggi volata, no? Oggi non si scappa, volata. No, si potrebbe scappare, Carlo. La volata scontata era ieri. Oggi è un circuito. Tanto arriviamo in un autodromo prima. C'è brutto tempo, piove e comunque non c'è un po' di pianura. E adesso c'è in atto un'azione da lontano, ma credo che potrebbe arrivare un gruppetto. Non credo che arriveranno un gruppo compatto. Sarà un po' difficile, dovranno sudare un po'. Lo scopriamo dopo nel corso dei giornali radio serali. Domani mattina invece speciale dopo GR delle 7. Marco Verinazzo, ti aspetto prestissimo. A presto, ciao Carlo. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ragazzi, a domani alle 2. Ciao. Ovazione per lui, eccezionale anche stasera.